Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, ripartiamo dal Belgio in occasione del G7 di domani. Dopodomani a Bruxelles tornano controlli alle frontiere, appunto in Belgio, per la prima volta dell'entrata in vigore di Schengen nel 95, quindi qualche complicazione, diciamo, in più, o meglio dimenticata, alle frontiere interne dell'Europa, quindi i passeggeri in arrivo negli aeroporti potranno essere fermati per un controllo dei documenti. Il tutto naturalmente reso opportuno, almeno per le scelte di polizia interna, anche dalla presenza del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Sentiamo. Il motivo è il G7 a Bruxelles, dove si parlerà di Ucraina e le celebrazioni del 70° sbarco in Normandia il prossimo venerdì. Il viaggio di Obama in Europa però parte dalla Polonia e non è un caso. A Varsavia il presidente degli Stati Uniti incontra alcuni piloti americani e polacchi di F-16 pronti a costituire una pattuglia comune. Poi parteciperà alle celebrazioni del 25° anniversario delle prime elezioni democratiche in Polonia, paese dell'ex blocco sovietico. Vedrà il neo presidente ucraino Poroshenko e stringerà la mano ai leader di altri paesi dell'est europeo. Tanto per ribadire che, sebbene l'America non abbia preso in considerazione la carta militare, l'Alleanza Atlantica non indietreggia di un passo di fronte alla Russia. Il nostro impegno per la sicurezza della Polonia e dei nostri alleati in Europa centrale e orientale è una pietra angolare della nostra sicurezza ed è sacrosanto, ha affermato appena sbarcato, mettendo sul piatto $1 miliardi. L'impegno di Obama però passa molto più dalle piazze finanziarie che non dallo schieramento degli arsenali. Più delle sanzioni di fronte alle quali Putin non ha fatto una piega hanno fatto i mercati, l'isolamento economico riservato a Mosca, mal digerito anche da alcune cancellerie europee che molti interessi hanno nell'interscambio con la Russia, deve aver fatto breccia, se è vero che da qualche settimana il presidente russo si mostra più conciliante. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Listini europei che proseguono prudenti all'indomani degli inviti che la Commissione europea ha rivolto all'Italia. Non una bocciatura, come abbiamo sentito, ma neanche una promozione. 8 le raccomandazioni al governo Renzi, dalla necessità di rafforzare le misure di bilancio per il 2014 all'ulteriore spostamento del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, dalla modernizzazione della pubblica amministrazione al miglioramento dell'efficienza delle banche. Insomma, una partita aperta. Sentiamo il commento di Dino Pesole. Da un lato la Commissione europea che invita a vigilare sul deficit strutturale, quello per intenderci che secondo le regole europee va ridotto di almeno lo 0,5% l'anno, prefigurando con ciò la necessità di un intervento in autunno. Dall'altro il governo che ribadisce che la via maestra per ridurre il debito è fare le riforme, far crescere di più l'economia e puntare sulle privatizzazioni, difformità di vedute piuttosto evidenti, poiché secondo il Ministero dell'Economia Bruxelles non tiene conto dell'effetto che le riforme potranno avere sul potenziale di crescita dell'economia. Di certo la partita che il governo si accinge a giocare si annuncia molto impegnativa. Domani a Bologna, per 2 giorni, la 6ª edizione di Innovation Match, un'iniziativa organizzata da Aster in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network, che è la rete europea che aiuta le piccole imprese a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato europeo. Allora sentiamo Gabriella Gualandi al microfono di Cristina Carpinelli. Domani 4 giugno e nella giornata del 5 giugno si svolgerà a Bologna Innovation Match, un'occasione di incontro tra ricercatori e imprese che si incontreranno all'interno di una fiera internazionale, di un salone internazionale della ricerca che si chiama Research to Business, per trovare occasioni per creare delle partnership di ricerca o di trasferimento tecnologico tra imprese siano italiane ma anche straniere e imprese, ricercatori che vengono dall'estero. Saranno 264 i partecipanti, alcuni dei quali provenienti da 9 paesi stranieri. Questa sera in Fetonotte un approfondimento su questo tema. Intanto vi ricordo che tutti i dettagli su questo evento e anche su come partecipare li trovate sul nostro sito. E con questo è tutto, Europa 24 torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.